belle città da tel nemico. Fuggimondi su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tempiamo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, vivendo distenti e di fatiche, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede. Siamo i ribelli della montagna, vivendo distenti e di fatiche, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede. La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigian della folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciamo talvolta